do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Bebo dello Stato Sociale, che è in collegamento con noi per parlare un po' della lettera che è stata pubblicata qualche giorno fa su internet, una lettera al sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Ciao Adele e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Innanzitutto volevo chiedere a Bebo che cosa lo ha spinto a scrivere questa lettera al sindaco di Bologna. La richiesta di questa lettera in realtà è arrivata da Rockit, proprio così, molto, molto direttamente. Ecco, io non avrei avuto probabilmente la stretta necessità di scrivere pubblicamente a Matteo Lepore. È appunto una richiesta editoriale da parte del magazine, che sta facendo un'operazione con tante colleghe e tanti colleghi su altre città, e quindi mi è sembrato giusto partecipare, così come sono contento lo abbia fatto anche Federico. Dal mio punto di vista, quello che c'è scritto lì dentro non è né più né meno di quello che ho avuto modo di dire più di una volta in campagna elettorale, avendo collaborato pubblicamente con Coalizione Civica ed Emily Clancy. E quindi insomma ho sfruttato l'occasione per poter fissare con parola scritta quello che precedentemente era stato solo detto durante la campagna e le piazze che abbiamo occupato positivamente per raccontare il nostro messaggio elettorale. Vengono nominati in più momenti i centri sociali. Secondo te qual è il significato di questi spazi in termini culturali e quanto credi siano importanti, in riferimento chiaramente agli spazi e ai centri sociali di Bologna? Cito più volte i centri sociali, così come in generale tutti i posti in cui si fa associazione libera e partecipata dal basso. Io penso che siano la vera grande risorsa di ogni città, da Bologna alla metropoli romana dove vivo adesso, al piccolo paesino di provincia. Insomma, sono realtà che offrono palchi a band e ad artisti che normalmente magari farebbero fatica ad entrare in club più strutturati per questioni di pubblico, per questioni di rapporto di economie ovviamente anche, e ti danno la possibilità di crescere anche al loro interno come artista, spesso con sale prove, spesso con gruppi di lavoro, spesso con iniziative legate alla costruzione dell'arte e della cultura. Sono tutti luoghi animati da una visione non capitalista della cultura, perché come ho detto anche in quella lettera, non possiamo aspettarci che la cultura si muova all'interno delle stesse logiche per cui si muove il mercato dell'automobile, per esempio, no? E quindi ha bisogno di spazi che la tutelino da questo punto di vista nella sua estrema varietà, quindi dalla cosa più alta e popolare alla cosa più bassa e strana e peggio fatta e amatoriale, ma è giusto che esista, è giusto che abbia il suo modo di esprimersi, così che poi insomma ci sia una lettura di quello che è la realtà culturale odierna, che non è solo quella bolognese, perché intendiamoci, Bologna non è né più né meno del paese di fianco, è esattamente come, e quindi esattamente come dobbiamo muoverci sul piano nazionale e cambiare il modo in cui noi operatori culturali ci proponiamo come interlocutori di modernità e contemporaneità alle amministrazioni. Devono cambiare le amministrazioni perché devono trovare dei modi per dialogare con chi fa cultura, e ovviamente anche il pubblico in qualche maniera pedagogicamente oppure per spirito di iniziativa personale deve cambiare il modo di usufruire e deve comprendere che questo mestiere, oltre a essere un mestiere, un lavoro a tutti gli effetti, vive anche delle particolarità. Quali sono i desideri e i bisogni di un artista oggi rispetto al mondo della musica e della cultura? Come ti dicevo prima, i bisogni e i desideri si vanno ad intersecare in quello che è una presa di coscienza su come funziona economicamente questo settore. Ci si aspetta non il bonus IMSS ogni tanto, che per carità quando non lavori è importante, ma ci si aspetta appunto una defiscalizzazione, per esempio, del consumo culturale, ci si aspetta una defiscalizzazione dell'impresa culturale. proprio perché non è vendere i bulloni, con tutto il rispetto di chi li produce e chi li vende, ovviamente, ma non è un sistema competitivo quello della cultura. Chi lavora e pensa alla cultura come un sistema competitivo ha completamente sbagliato dal mio punto di vista. La cultura è un sistema collaborativo, è una cosa di relazione con l'altro e può esistere solo se questo altro poi entra in relazione sempre più ampia, costruendo appunto poi una solidità, è quello che viene inteso come tessuto culturale. Quindi noi ci aspettiamo appunto che l'amministrazione faccia in qualche maniera da amalgama, da boost, da un'altra parola a vostro piacimento, insomma da impastatrice, da grande impastatrice del pane, per dare a tutte e tutti le possibilità di svilupparsi e crescere, perché quello che manca in una città come Bologna è la possibilità di emergere, perché purtroppo non siamo una metropoli e anche per fortuna dal punto di vista della qualità della vita, dall'altro lato ovviamente non possiamo accontentarci di essere un grande paesone. Ti faccio l'ultima domanda, Bebo, ti chiedo se c'è stata una risposta da parte del sindaco. Non c'è stata per ora una risposta del sindaco Lepore, ma io penso anche che non ci sia grosso bisogno, io almeno personalmente non credo che ci sia grosso bisogno di dare delle risposte, sono tutte cose presenti nei dibattiti a cui lui ha anche partecipato e su cui si è esposto, insomma penso alla questione sindaca della notte o alla progettazione culturale della città di cui lui è assessore da diversi anni, quindi insomma, io mi aspetto che non ci sia bisogno di rispondere a una lettera scritta da Alberto Bebo Guidetti o da Federico Cimini. C'è bisogno ovviamente di dimostrare che c'è una volontà politica di gestire dal basso quello che sono delle richieste strutturali del mondo della cultura. Gli ultimi 2 anni ci hanno insegnato come questo settore sia fragile e come abbia bisogno appunto di progettazione, che non vuol dire poi controllo, no? Cioè non vogliamo il mincul pop, vogliamo bandi, vogliamo che le spazi inoccupati, nel senso che inutilizzati, vengano dati in concessione, se non gratuita ma di molto favore, per appunto costruire spazi solidali di cultura. Insomma, ci sono tante pratiche che un'amministrazione può mettere in campo per aiutare il fiorire della cultura. Il sindaco Lepore ne ha parlato tante volte, ci aspettiamo, visto che il risultato elettorale è stato quasi bulgaro, ci aspettiamo che questa cosa vada in porto, perché siamo tante e tanti a desiderarlo.